pezzo di ambiti con me. Di questa che materie prodotte dalla mia mente. Non tranquilli mente, non tranquilli mente, ti serve adesso. Mani e piedi sul volto della tua tristezza. Mani e piedi sul volto della tua tristezza. Luminosa casa, di tempi di...